quando tutto tace, vo lontan dalla città. Solo nella notte il mio cuore scrutando va, e nel mister lungi va il pensier, quando nel mondo c'è ancor chi s'illude d'amor, e l'ingenuo non sa che c'è il fango qua giù in finzion di virtù. Cosa m'importa se il mondo mi rese glaciale, se d'ogni cosa nel fondo non trovo che mal, quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinghe pel mondo ramingo io vo, e me ne rido beffando il destino così. Nel mio sogno errante mi sentivo trasportato, scettico e perverso m'hanno fatto diventare un cencio, e qui c'era il cuore un dì, passa la gioia, il dolor, sento il soffio del mal, sento il soffio del ben, la nequizia, il candor ed il falso pudor. Cosa mi importa se il mondo spezza l'illusione? Guarda il sogghigno giocondo, io scettico sono, non mi lascio ingannare, or la vita compreso, senza lusinghe pel mondo ramingo io vo, e me ne rido beffando il destino così.